Entrando nella sala mi imbattei in Ortensia. Di colpo si era messa in bianco, come usava sua madre. Ortensia si era voltata verso il conte Flahaul, suo scudiero, e lo guardava intensamente negli occhi. Giulia si lasciò cascare su di un sofà e si raddrizzò la corona. Bevemmo avidamente lo champagne che ci venne offerto. Chissà se pensa che una volta qui alle Tuilerie ha abitato sua zia, mi passò ad un tratto per la mente. Giulia mi guardò stupita. Ti prego, a questa corte imperiale non trovi nessuno la cui zia abbia abitato alle Tuilerie. Ma sì, la nuova imperatrice è la pronipote della regina Maria Antonietta. La regina Maria Antonietta, disse Giulia, e gli occhi le si spalancarono per l'angoscia. Sì, oh, Giulia Clary, regina anche tu, evviva cara, non pensarci. E bevvi alla sua salute. Maria Luisa ha molte ragioni per odiarci, pensai. Dimmi un po', sorride sempre l'imperatrice? Domandai a Giulia, che ha già visto parecchie volte la sua nuova cognata. Sempre, dichiarò seria Giulia, e anch'io educherò così le mie figlie. Le principesse, a quel che pare, sorridono continuamente. L'alito dolce azzurro di un profumo esotico ci interruppe. Paulette, un profumo assai più gradevole del gelsomino. Paulette mi passò il braccio intorno al collo. L'imperatore si immagina che Maria Luisa sia incinta. Gemeva dal ridere. E da quando? Domandò Giulia agitata. Da ieri. Il profumo esotico si dileguò. Giulia si levò in piedi. Devo tornare alla sala del trono. L'imperatore ama vedere i membri della sua famiglia intorno al trono. I miei occhi cercarono Gian Battista. Era appoggiato ad una finestra e osservava con indifferenza la folla. Mi accostai a lui. Non possiamo tornarcene a casa? Egli assentì e mi prese lievemente il braccio. D'improvviso Talleyrand ci sbarrò la via. Vi sto cercando, caro principe. Questi signori mi hanno pregato di presentarli a voi. Dietro di lui erano alcuni ufficiali di alta statura, in uniforme straniera, turchina, con sciarpe gialle e azzurre. Il conte Brahe dell'ambasciata di Svezia, il colonnello Wrede, che è arrivato da pochi giorni per porgere all'imperatore, nell'occasione delle sue nozze, le felicitazioni di Sua Maestà il re di Svezia, e il tenente barone Carlo Otto Mörner, che è giunto questa mattina portando un tragico annunzio, e anche cugino di quel Mörner che voi, caro principe, una volta faceste prigioniero a Lubecca, ve ne ricordate ancora? Siamo in corrispondenza, disse calmo Gian Battista e fece scorrere lo sguardo dall'uno all'altro degli svedesi. Voi siete uno dei capi del cosiddetto partito unionista di Svezia, non è vero, colonnello Wrede? Il lungo ufficiale si inchinò. Talleyrand si rivolse a me. Vedete, cara principessa, come bene informato vostro marito delle cose di Svezia, il partito unionista propugna l'unione della Norvegia alla Svezia. Un amabile sorriso comparve intorno alla bocca di Gian Battista. Egli mi dava sempre il braccio. Adesso osservava Mörner, quest'uomo bruno, basso, tarchiato, dai capelli corti che alle tempie piegavano sulla fronte, cercava i suoi occhi. Ho una missione tragica, principe, disse in un francese spedito, un po' aspro. Reco la notizia che l'erede al trono di Svezia, Sua Altezza Reale il principe Carlo Augusto di Augustenborg, ha perduto in un incidente la vita. Avrei dovuto gridare. Così forte fu la stretta improvvisa delle dita di Gian Battista intorno al mio braccio. Non durò che la frazione di un secondo. Che cosa terribile, disse con calma. Esprimo a voi, signori, il mio profondo cordoglio. Seguì una pausa. Le note di un valzer giunsero a noi per un momento. Perché non ce ne andiamo? Tutto questo poi non ci riguarda. Adesso quel re di Svezia senza figli dovrà andare in cerca di un nuovo principe ereditario. Andiamo. È già stato scelto il successore del defunto erede del trono? Domandò Talleyrand. La domanda parve incidentale, mossa da un interesse di cortesia. Allora, per caso, il mio sguardo cadde su Mörner. Strano, egli continuava a fissare Gian Battista. Con uno sguardo singolare, come se volesse trasmettergli certi suoi pensieri. Dio mio, che cosa vogliono da mio marito? Lui non può risuscitare il loro defunto Augustenborg. Questo incidente non lo interessa. Abbiamo già abbastanza grattacapi per conto nostro qui a Parigi, adesso siamo in disgrazia. Ora guardava il colonnello dall'alta statura. Che con la sciarpa giallo-azzurra che si chiama Vrede, o pressappoco così. Lui pure non staccava gli occhi da Giambattista. Finalmente il bassotto, il barone Mörner, disse: «Per il 21 agosto sarà convocato il Parlamento svedese per deliberare sulla scelta di un nuovo successore al trono». Seguì un'altra di quelle incomprensibili pause. «Mi duole, ma dobbiamo congedarci da questi signori ufficiali svedesi. Giambattista uscì a dire io». Gli ufficiali subito si inchinarono. «Vi prego di comunicare le mie condoglianze a Sua Maestà il re di Svezia e di dirgli quanto sia profondo il mio lutto per lui e per il suo popolo», disse Giambattista. «È tutto questo che devo comunicare?» sfuggì detto a Mörner. Quando già si era avviato per uscire, Giambattista li guardò ancora, l'uno dopo l'altro. Da ultimo i suoi occhi si fermarono lungamente sul giovane conte Brahe. Questi non poteva avere più di 19 anni. «Conte Brahe, se non sbaglio voi appartenete a una delle più nobili famiglie di Svezia, perciò vi prego di ricordare ai vostri amici e ai vostri camerati ufficiali che io non sono stato sempre principe di Pontecorvo e neppure maresciallo di Francia. Io sono ciò che nei vostri circoli patrizi si chiama un generale giacobino e ho incominciato da semplice sergente. In una parola, io sono un parvenu. Vi prego di riflettere su questo perché...» Respirò profondamente e di nuovo le sue dita serrarono dolorosamente il mio braccio. «Perché un giorno non me lo rimproveriate?» Poi in fretta: «Vi saluto, signori». Strano, ma era destino che ci incontrassimo ancora con Talleyrand quella sera. La sua carrozza davanti alle Tuilerie era ferma accanto alla nostra. Mentre stavamo per montarvi, Giambattista se lo vide venire incontro zoppicando. «Caro principe, la parola è stata data all'uomo per nascondere il proprio pensiero», disse. «Ma voi, caro principe, vi servite di questo dono in senso opposto. Non si può proprio dire che abbiate nascosto il vostro pensiero agli svedesi». «Ma devo proprio essere io a ricordare ad un ex vescovo che nella Bibbia sta scritto «la tua parola sia sì, sì e no, no» e quel che è detto in più è male? Non suona pressappoco così il detto della Bibbia, signor vescovo?» Talleyrand si morse le labbra. «Non ho mai saputo che foste spiritoso, principe», mormorò. «Ne sono sorpreso». Giambattista scoppiò in una risata. «Non sopravvalutate i modesti scherzi di un sergente avvezzo a dir facezie con i suoi camerati accanto ai fuochi dei bivacchi». E di colpo si fece serio. «Gli ufficiali svedesi vi hanno detto chi viene proposto come successore al trono da parte della Casa Reale di Svezia?» «Il cognato del defunto principe ereditario, il re di Danimarca, vorrebbe presentare la propria candidatura». Giambattista annuì. «E poi? Chi ancora?» «Il fratello minore del morto, il duca di Augustenborg. Inoltre il re deposto che vive attualmente esiliato in Svizzera ha un figlio». «Beh, si vedrà. Il Parlamento svedese sta per essere convocato. Il popolo stesso potrà decidere. Buonanotte, caro amico». «Buonanotte, eccellenza». Appena a casa, Giambattista andò nel suo spogliatoio e aperse l'alto collo riccamente ricamato dell'uniforme. «Sono anni che te lo dico, devi farti allargare il collo dell'uniforme, ti è troppo stretto». «Sì, piccola sciocca ragazzina, che non sai mai quel che ti dici. Sì, è troppo stretta». E senza badare oltre a me, si ritirò nella sua camera da letto. «Io scrivo perché non riesco ad addormentarmi, e non riesco ad addormentarmi perché ho paura, ho tanta paura di qualche cosa che mi viene addosso e a cui non posso sottrarmi. Giambattista, non mi ascolti, ho tanta paura». Parte terza, Notre Dame de la Paix. Parigi, settembre 1810. Qualcuno mi fece lume in faccia. «Alzati subito, Desiree, alzati e vestiti in fretta». Giambattista stava con un candeliere in mano presso il mio letto. Depose il candeliere e incominciò ad abbottonarsi la tunica dell'uniforme di maresciallo. «Ma sei impazzito, Giambattista? È notte!» «Sbrigati! Ho fatto svegliare anche Oscar. Voglio che il ragazzo sia presente, anche lui». Rumore di passi e voci al pian terreno. Yvette entrò furtivamente. S'era buttata in gran fretta una veste di servizio sulla camicia da notte, una delle mie smessa. Scivolava sul pavimento. «Su, fate presto, aiutate la principessa», disse Giambattista impaziente. «Per l'amor del cielo, è accaduto qualche cosa?» esclamai io sbalordita. Sì, e no, sentirai tu stessa. Vestiti una buona volta. Ma che cosa mi devo mettere? Domandai smarrita. Mettiti l'abito più elegante che hai, il più elegante, il più prezioso, capisci? No, non capisco niente! Ero furibonda. Yvette, portami l'abito di seta gialla che avevo a corte ultimamente. Vuoi dirmi finalmente di che si tratta, Giambattista? Ma lui già era uscito dalla mia camera. Con mani che volavano mi pettinai. Il diadema, principessa? Domandò Yvette. Sì, il diadema, dissi stizzita. Portami la scatola dei gioielli, mi metterò addosso tutto ciò che posseggo. Se non mi dice che cosa è successo, non so neppure che cosa mi devo mettere. E svegliare il ragazzo nel bel mezzo della notte. Sei pronta finalmente, Desirée? Un po' di rossetto sulle labbra, principessa, bisbigliò Yvette. Nello specchio la mia faccia insonnolita mi sbadigliava davanti. Rossetto, cipria, presto, presto, Yvette. Vieni ormai, Desirée, non li possiamo far attendere di più. Ma chi non possiamo far attendere? Per quel che so io è notte avanzata. Per me vorrei continuare a dormire. Giambattista mi prese il braccio. Tienti su adesso, ragazzina. Ma di che cosa si tratta dunque? Non vuoi essere tanto gentile da dirmelo una buona volta? Del più grande momento della mia vita, Desirée. Avrei voluto fermarmi a guardarlo in faccia, ma lui teneva stretto il mio braccio e mi condusse giù per la scala. Davanti alla porta, nella sala grande, Maria e Fernando spinsero verso di noi Oscar. Gli occhi di Oscar scintillavano per l'eccitazione. È scoppiata la guerra, papà? Viene a farci visita l'imperatore, papà? Oh, com'è ben vestita la mamma! Avevano cacciato il bambino nel suo vestito più bello e gli avevano ravviati con l'acqua i riccioli ribelli. Giambattista prese Oscar per mano. La sala era tutta illuminata. Tutti i candelieri di casa vi erano stati collocati. Alcuni signori ci aspettavano. Giambattista mi prese di nuovo il braccio e lentamente, tra il ragazzo e me, avanzò verso il gruppo. Uniformi straniere, sciarpe giallo-azzurre, decorazioni scintillanti, e un giovanotto in tunica polverosa con gli stivali tutti infangati. I capelli chiari gli scendevano arruffati fino alle spalle, teneva fra le mani un enorme plico suggellato. Al nostro ingresso si inchinarono. Di colpo si fece un profondo silenzio. Poi si fece innanzi il giovane dal plico suggellato. Doveva avere cavalcato per molti giorni e molte notti. Vi erano delle ombre sotto i suoi occhi. La mano che teneva il plico tremava. Gustavo Federico Mörner, dei dragoni di Uppland, il mio prigioniero di Lubecca. Disse lentamente Giambattista. Sono lieto di rivedervi, molto lieto. Era dunque costui quel Mörner con cui Giambattista aveva conversato per una notte intera sull'avvenire dei paesi nordici. La sua mano tremante porse il plico a Giambattista. Altezza reale, il mio cuore cessò di battere. Giambattista lasciò andare il mio braccio e prese calmo il plico. Altezza reale, quale camerlengo di gabinetto di Sua Maestà, Re Carlo XIII di Svezia, ossequientemente vi comunico che il Parlamento svedese ha eletto ad unanimità il principe di Pontecorvo, successore al trono. Sua Maestà Re Carlo XIII desidera adottare il principe di Pontecorvo e riceverlo in Svezia come suo figlio di letto. Gustavo Federico Mörner vacillò. Chiedo scusa, per giorni interi non sono sceso di sella, mormorò. Un uomo anziano, dal petto costellato di decorazioni, lo prese prontamente per un braccio. Allora Mörner si ricompose. Posso presentare questi signori a vostra Altezza Reale? Giambattista assentì impercettibilmente. Il nostro ambasciatore straordinario a Parigi, feldmaresciallo conte Hans Henrik di Essen. L'uomo anziano giunse i tacchi, il suo volto era irrigidito. Giambattista annuì. Voi eravate governatore generale in Pomerania? Avete allora egregiamente difeso la Pomerania contro di me, signor feldmaresciallo. Il colonnello Wrede, continuò Mörner. Noi ci conosciamo. Gli occhi di Giambattista caddero sul foglio che Wrede aveva tirato fuori. E il conte Brahe dell'ambasciata di Svezia a Parigi. Il giovanotto si inchinò ancora. Il barone Friesendorf, aiutante del feldmaresciallo conte von Hessen. Un altro dei vostri prigionieri di Lubecca, Altezza, sorrise Friesendorf. Mörner, Friesendorf e il giovane Brahe fissavano con occhi pieni di luce Giambattista. Wrede aspettava con le sopracciglia inarcate. Il volto del maresciallo di Essen era senza espressione, solo le labbra serrate avevano una nota d'amarezza. Il silenzio era così assoluto che udivamo lo sgocciolare delle candele. Giambattista trasse un profondo respiro. Accetto l'elezione del Parlamento svedese. I suoi sguardi erano fissi su Essen, l'avversario battuto, il vecchio servitore di un vecchio re senza figli. Commosso e risoluto, aggiunse: «Ringrazio Sua Maestà Re Carlo XIII e il popolo svedese della fiducia che mi viene dimostrata. Prometto di fare tutto ciò che mi sarà possibile per giustificare questa fiducia». Il conte di Essen chinò il capo, lo curvò profondamente, fece un grande inchino e con lui si inchinarono gli altri svedesi. In questo momento avvenne un fatto singolare. Oscar, che fino allora non si era mosso, avanzò di un passo e si trovò proprio accanto agli svedesi. Poi si voltò e la sua mano di fanciullo strinse quella del giovane Brahe, che aveva forse 10 anni più di lui, e si trovò in mezzo agli svedesi, ed egli pure chinò il capo con loro e si inchinò davanti a suo padre e a sua madre. Giambattista cercò la mia mano. Come uno scudo protettore le sue dita si posarono sulle mie. La principessa ereditaria ed io vi ringraziamo di averci recato per primi questo annuncio. Poi avvennero molte cose in una volta sola. Giambattista disse: «Fernando, le bottiglie che ho messe da parte in cantina quando è nato Oscar». Io mi voltai per cercare Maria. La nostra servitù era in piedi presso la porta. Madame Laflotte, in un prezioso abito di seta, probabilmente pagato da Fouché, si sprofondò in un inchino d'etichetta. Proprio accanto a me si inchinò la mia lettrice. Yvette singhiozzava disperatamente. Soltanto Maria non si muoveva. Portava la sua vestaglia di lana sull'antiquata camicia da notte di tela. Lei aveva dovuto vestire Oscar e non aveva trovato il tempo di pensare a se stessa. Così si teneva in un angolo e si serrava timorosa la vestaglia sul petto. «Maria!» le sussurrai. «Hai udito? Il popolo svedese ci offre la corona! È una cosa diversa da quella di Giulia e Giuseppe! È tutt'altra cosa, Maria! Ho paura!» «Eugenia!» La sua voce era rauca e soffocata. Poi Maria si scordò di tenere chiusa la vestaglia. Una lacrima le scorse giù sulla guancia mentre lei... «Maria!» «La mia vecchia Maria faceva una riverenza di corte a me». Giambattista stava appoggiato al camino ed esaminava il plico che Mörner gli aveva presentato. L'austero feldmaresciallo conte di Essen gli si avvicinò. «Sono le condizioni, altezza reale», disse. Giambattista alzò gli occhi. «Suppongo che anche voi siate stato informato un'ora fa della mia elezione. Voi siete stato sempre a Parigi, signor feldmaresciallo. Mi spiace». Il feldmaresciallo di Essen levò stupito le sopracciglia. «Che cosa vi spiace, altezza reale?» «Che non abbiate avuto il tempo di abituarvi. Sinceramente mi spiace. Voi avete sempre difeso, con grande fedeltà e grande valore, tutta la politica della casa Vasa. Non è stato sempre facile, conte di Essen». «È stato anche difficilissimo. E la battaglia che io allora combattei contro di voi purtroppo l'ho perduta, altezza reale». «Ricostruiremo insieme l'esercito svedese», rispose Giambattista. «Prima che io, nelle prime ore di domattina, mandi a Stoccolma la risposta del principe di Pontecorvo, vorrei richiamare la vostra attenzione su di un punto del documento», disse il feldmaresciallo. La sua voce aveva quasi un tono minaccioso. «Si tratta della cittadinanza. L'adozione implica che il principe di Pontecorvo diventi cittadino svedese». Giambattista sorrise. «Ah, avete supposto che io, come cittadino francese, potessi assumere la successione al trono di Svezia?» Uno stupore incredulo si diffuse sul volto del conte di Essen. «Ma io credetti di non avere inteso bene. Domani presenterò un'istanza all'imperatore di Francia e pregherò Sua Maestà di sciogliermi dal vincolo di dipendenza dallo Stato francese. Ah, ecco il vino, signori!» Non so più come risalì nella mia camera da letto. Forse mi ci ha portato Giambattista o Maria, aiutata da Fernando. «Non devi gridare coi tuoi nuovi sudditi, Giambattista». I miei occhi si erano chiusi, ma sentivo che lui era accanto al mio letto. «Provati un po' a pronunciare Carl Johan», disse lui. «Perché? Mi chiamerò così adesso. Carl, come il mio padre adottivo, e Johan è la forma svedese di Giovanni, Carlo Giovanni, Charles Jean nella nostra lingua. giocherellava con le parole. Carl Johan, Carl XIV Johan. Sulle monete sarà inciso Carolus Johannes e la principessa Desideria. Don Balzo mi sedetti sul letto. Oi, qui si corre troppo. Io non mi lascerò chiamare Desideria. A nessun costo, capisci? È un desiderio della regina di Svezia, la tua suocera adottiva. Desirée le suona troppo francese. Del resto Desideria fa più impressione, lo devi riconoscere. Oh, io mi lasciai ricadere sui cuscini. Credi tu che si possa cancellare noi stessi, dimenticare chi si è, di dove si viene, andare in Svezia e recitare la parte della principessa ereditaria? Giambattista, credo che sarò molto infelice. Ma lui non mi stava a sentire. Continuava a giocherellare con i nomi. Principessa ereditaria Desideria. Desideria in latino suona come la desiderata. Ci può essere un nome più bello per una principessa che un popolo liberamente si sceglie? No, Giambattista, io non sono desiderata dagli svedesi. Essi hanno bisogno di un uomo forte, ma una debole donna che per giunta è figlia di un negoziante di sete e non conosce altro che un certo signor Person, non è certo desiderata. Giambattista si alzò. Ora faccio un bagno freddo e poi detto la mia istanza all'imperatore. Io non mi mossi. Guardami bene in faccia, Desire, guardami bene. Io chiederò per mia moglie, per mio figlio e per me di essere svincolato dall'appartenenza allo Stato francese, al fine di conseguire la cittadinanza svedese. Mi approvi? Non risposi e neppure lo guardai. Desire, non farò questa richiesta se tu sei di parere contrario, mi ascolti? Neppure adesso gli diedi risposta. Desire, non capisci che cosa è in gioco. Allora lo guardai. Fu per me come se lo vedessi per la prima volta. La fronte intelligente, sulla quale ricadevano in disordine i capelli scuri, crespi, il naso audace, sporgente, gli occhi fondi, indagatori e insieme tranquilli, la bocca piccola, passionale. Pensai ai grossi infolio sui quali studiava l'antico sergente, alle leggi doganali dello Hannover che ridiedero vita al paese. Lui ha pescato la sua corona nel rigagnolo e a te l'offre un popolo con il suo re alla testa. Pensai stupefatta. Sì, Giambattista, so che cosa è in gioco. E verrai in Svezia con me e con Oscar? Se veramente sarò la desiderata. Finalmente avevo trovato la sua mano. Finalmente potei premerla contro la mia guancia. Come gli voglio bene, mio Dio, come lo amo. E se tu mi giuri che non mi chiamerai mai Desideria, te lo giuro, ragazzina. E allora lascia che la principessa del paese dei ghiaccioli riprenda finalmente il suo sonno interrotto e va a fare il tuo bagno freddo, Carlo Giovanni. Prova a dire Charles Jean. A Carlo Giovanni devo abituarmi lentamente. Per quel che ti conosco ti abituerai presto. E baciami ancora. Voglio vedere come bacia un principe ereditario. Ebbene? Mi disse dopo. Come bacia un principe ereditario? Oh, magnificamente. Proprio come il mio vecchio Giambattista Bernadotte. Dormii a lungo e agitata. Mi destai con l'impressione che fosse accaduto qualche cosa di terribile. Guardai l'orologio sul mio comodino. Le due di notte o le due del pomeriggio? Udii la voce di Oscar in giardino, poi una voce d'uomo non nota. Attraverso le imposte chiuse filtrava la luce del giorno. Come può essere che io abbia dormito sino ad ora? Mi sentivo un peso sullo stomaco. È accaduto qualche cosa, ma che cosa? Suonai. La Laflotte e la mia lettrice entrarono insieme, si sprofondarono in un inchino di corte. Sua Altezza Reale comanda! Allora mi ricordai. Continuare a dormire, pensai scoraggiata. Non sapere, non pensare a niente, dormire ancora. Le regine di Spagna e d'Olanda hanno fatto domandare quando Sua Altezza Reale potrebbe riceverle, annunciò la Laflotte. Ah, dov'è mio marito? Sua Altezza Reale si è chiuso nel suo studio con i signori svedesi. Il principe ereditario gioca a palla col conte Brahe. Il conte Brahe? Il giovane conte svedese, disse la Laflotte insinuante e sorrise estasiata. Oscar ha rotto un vetro della finestra nella stanza da pranzo, aggiunse la mia lettrice. I cocci portano fortuna, osservò Madame Laflotte. Ho una fame terribile, dichiarai. La mia lettrice fece un inchino d'etichetta e scomparve. Che cosa devo dire alle loro maestà di Spagna e d'Olanda? Insistette Madame Laflotte. Ho mal di capo e fame, e all'infuori di mia sorella non voglio vedere nessuno. Fate dire alla regina d'Olanda che. Oh Dio, troverete bene qualche cosa da dirle, e adesso vorrei restare sola. Aprii le imposte e guardai nel giardino. Voi tirate proprio alle rose di mamma, signor conte, gridava Oscar. Vostra Altezza deve prendere la palla. Attento, io tiro, gridò il giovane Brahe. Brahe aveva tirato forte. Oscar vacillò nell'acchiappare la palla, ma l'acchiappò. Credete che riuscirò anch'io nelle battaglie come papà? Gridò Oscar attraverso il praticello. Rigettate la palla, ma forte! Comandò Brahe. Oscar gli scagliò la palla sul petto. Brahe l'afferrò. Vostra Altezza tira forte, dichiarò e rigettò la palla. La palla finì tra le mie rose gialle, grandi rose autunnali, stanche, dai petali un po' vizi. Le conosco a una e le amo da più giorni. La mamma si arrabbierà molto, disse Oscar e guardò sgomento su alle mie finestre e mi vide. Mamma, ti sei svegliata? Il giovane conte Brahe si inchinò. Vorrei parlarvi, conte Brahe. Avete tempo? Abbiamo rotto un vetro nella stanza da pranzo, confessò in fretta. Beh, spero che lo Stato svedese risponderà dei danni, dissi io ridendo. Il conte Brahe batté i tacchi. Con licenza, madame, lo Stato svedese è quasi in fallimento. Ecco, me l'ero immaginato, mi sfuggì detto involontariamente. Aspettatemi, scendo in giardino. Poi sedetti fra il giovane conte e Oscar sulla panchina bianca davanti alla spalliera dei frutti. Il molle sole settembrino mi accarezzava. Mi sentii ad un tratto molto meglio. Oscar domandò. Non potresti parlare più tardi al conte, mamma? Stavamo giocando tanto bene. Scossi il capo. No, voglio che tu ascolti. Dalla casa uscirono delle voci maschili. La voce di Giambattista suonava, risoluta e molto alta. Il feldmaresciallo conte di Essen e i componenti la sua missione ripartiranno già oggi per la Svezia a recare la risposta di Sua Altezza Reale, disse il conte Brahe. Mörner rimane qui. Sua Altezza Reale lo ha nominato suo aiutante personale. Naturalmente abbiamo già spedito un corriere a Stoccolma. Io annuii. Cercavo disperatamente un esordio per le mie domande. Non ne trovai nessuno adatto. E allora venni fuori di colpo. Prego, vogliate dirmi con tutta sincerità, caro conte, come si spiega che la Svezia offra la corona proprio a mio marito? Oh, Sua Maestà, Re Carlo XIII non ha figli e nel nostro paese si ammira da molti anni il geniale governo e le grandi qualità di Sua Altezza Reale. E lo interruppi. Mi è stato detto che si è deposto un re perché si crede che sia demente. È proprio pazzo? Il conte Brahe fissò gli occhi su di una foglia vizza dei peschi a spalliera e disse: Noi lo crediamo. Perché? E suo padre, Re Gustavo III, era già molto. Ecco. Molto singolare. Voleva ridare alla Svezia il suo grado di grande potenza e attaccò la Russia. La nobiltà e tutti gli ufficiali gli erano avversi. E per far vedere alla nobiltà che il re solo ha diritto di decidere della pace e della guerra, egli si rivolse ai, ecco, agli stati inferiori e a chi? Ai commercianti, agli artigiani, agli agricoltori, in una parola, ai borghesi. Si rivolse ai borghesi? E che cosa accadde allora? Certo, la Camera dove erano rappresentati soltanto il terzo e il quarto Stato gli concedette ampi poteri e il re marciò di nuovo contro la Russia. E intanto la Svezia era terribilmente indebitata e non poteva provvedere a questi continui armamenti. Perciò la nobiltà decise di intervenire e il conte Brahe si animò. E allora accadde una cosa assai interessante. Il re, durante un ballo mascherato, fu circondato da molte maschere nere. E ucciso a colpi di pistola. Stramazzò, mortalmente ferito, e il feldmaresciallo di Essen. Brahe fece un cenno nella direzione del mormorio di voci che usciva dalla sala. Sì, il fedele Essen lo prese tra le braccia. Dopo la sua morte, il fratello di lui, l'attuale nostro re, assunse la reggenza. Quando il giovane Gustavo IV uscì di tutela, salì al trono e purtroppo si vide che Gustavo è demente. È questo il re che si immagina di essere lo strumento di Dio per annientare l'imperatore dei francesi? Il conte Brahe annuì e osservò impacciato la foglia appassita. Perché non ha vendicato l'uccisione del suo papà? Domandò Oscar. Anche un pazzo sa che non ci si può vendicare contro la propria nobiltà, mormorò Brahe distrattamente. Continuate a raccontare la vostra storia di orrori, conte Brahe, dissi io. Egli mi guardò come se avessi parlato per ischerzo. Storia di orrori? Ma io non sorridevo. Egli allora esitò. Prego, continuate. Gustavo IV credette di leggere tra le righe della Bibbia che a lui spetta di annientare la Francia. La Francia rivoluzionaria, si intende. Perciò si unì ai nemici della Francia, dopo che lo zar fece la pace con Napoleone, si volse anche contro la Russia. Partimmo così in guerra contro le maggiori potenze del continente e ne uscimmo quasi dissanguati. Il feldmaresciallo di Hessen perdette la Pomerania contro vostro marito, pardon, contro Sua Altezza Reale, il principe ereditario Carlo Giovanni e i russi ci hanno portato via la Finlandia, la nostra Finlandia. Fece una pausa, poi improvvisamente. E se il principe di Pontecorvo allora, quando si trovava con le sue truppe in Danimarca, avesse attraversato l'Øresund gelato, oggi la Svezia non esisterebbe più. Madame, Altezza Reale, noi siamo un antichissimo stato. Siamo sì stanchi e disfatti, ma vogliamo esistere. Si morse il labbro inferiore. Un bel ragazzo dai lineamenti regolari, questo conte Brahe di antica stirpe svedese. Perciò i nostri ufficiali hanno deliberato di porre termine a questa politica insensata. Lo scorso anno, al 13 marzo, Gustavo IV fu arrestato nel Castello Reale di Stoccolma. Il Parlamento si radunò e lo depose. Fu fatto re lo zio di lui, che era già stato reggente, il padre adottivo delle Altezze Reali. E dove si trova adesso questo pazzo Gustavo? Oh, credo in Svizzera. Ha un figlio, non è vero? Sì, un altro Gustavo. Il Parlamento lo ha privato di qualsiasi diritto alla corona di Svezia. Quanti anni ha? Ha l'età di Oscar, del principe ereditario Oscar. Il conte Brahe si alzò, colse la foglia vizza dalla spalliera e la sbriciolò distrattamente fra le dita. Tornate qui. E ditemi che cosa si rimprovera questo piccolo Gustavo. Il conte alzò le spalle. Niente, ma non lo si vuole. Il popolo teme che vi siano delle predisposizioni morbose nella famiglia Vasa. È una stirpe principesca molto antica, Altezza, e vi sono stati molti matrimoni in famiglia. La dinastia Vasa è troppo vecchia per loro. Ha voluto rifare della Svezia una grande potenza e ha rovinato la nazione. Da ultimo si è perfino appoggiata agli stati inferiori, i cosiddetti borghesi, e allora la nobiltà si è messa una maschera nera ed è andata ad un ballo. L'attuale re non ha mai avuto figli? Brahe si animò. Carlo XIII e la regina Edwige Elisabetta Carlotta hanno avuto un figlio, ma questi è morto già da molti anni. Salendo al trono, Sua Maestà dovette naturalmente adottare un successore. E scelse il principe di Augustenborg, il cognato del re di Danimarca. Questo principe era anche luogotenente di Norvegia e i norvegesi lo amavano molto. Si sperava, dopo la sua ascesa al trono, in un'unione tra Svezia e Norvegia. Quando agli ultimi di maggio il principe di Augustenborg, per una disgrazia, morì, venne di nuovo convocato il Parlamento. Vostra Altezza Reale conosce il risultato dell'elezione. Voi dite che dopo la morte di questo Augustenborg è stato convocato il Parlamento. Come si è comportata in tale occasione la nobiltà? La vecchia nobiltà svedese, la quale non ha mai permesso che fossero accordati ai borghesi troppo ampi diritti. Il conte Brahe mi guardò risoluto. La maggior parte dei giovani nobili sono ufficiali. Noi abbiamo vanamente tentato di difendere la Finlandia e di tenere la Pomerania. Le idee del principe di Pontecorvo ci hanno entusiasmati. Abbiamo cercato di guadagnare alla nostra causa i nostri genitori e dopo l'assassinio tutti si convinsero che noi saremmo perduti se non sarà scelta per succedere al trono una forte personalità. Dopo l'assassinio? Mio Dio, un altro delitto? Vostra Altezza probabilmente non ha ancora saputo che al funerale del principe Augustenborg è stato assassinato il maresciallo del regno, conte Axel Fersen, a poca distanza dal castello reale sulla strada. Fersen? E chi è il conte Fersen? Brahe sorrise. L'amante della defunta regina Maria Antonietta. L'uomo che tentò di far fuggire di contrabbando dalla Francia la povera regina e Luigi XVI. Tutta la comitiva fu fermata a Varennes. Del resto, fino alla morte, il conte Axel Fersen ha portato l'anello della regina. Una storia assai triste. Voi non mi raccontate che delle storie tristi, conte Brahe, mormorai smarrita. Più cose mi dite di Stoccolma, e più cresce la mia tristezza.